I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Non è certo una nuova corsa al mattone, ma il mercato immobiliare italiano mostra i primi segni di una timida ripresa. Lo conferma un report di Moody's, l'agenzia di certificazione internazionale, che è stato pubblicato ieri. Secondo gli analisti della società di rating, il seppur parziale miglioramento delle condizioni macroeconomiche e i bassi tassi di interesse stimolano in questo periodo la domanda e la sottoscrizione di mutui per l'acquisto della casa. Pesa favorevolmente anche il ritorno al segno più per il PIL, che si attesta per fine anno tra più 0,7 e più 0,8% dopo 14 trimestri negativi. Secondo gli analisti di Moody's, la crescita dei mutui e la caduta dei prezzi negli anni di crisi, pari a circa il 19% dal 2008, suggeriscono che il mercato si trovi ora sulla strada della stabilizzazione. La vendita di casa è comunque in salita. Moody's indica un più 6,2% nel secondo trimestre 2015. I dati dell'Agenzia delle Entrate italiana invece registrano un aumento di compravendita di case pari all'8,2% in più per il secondo trimestre 2015 e del 10,8% in più nel terzo. Del resto anche il dato sui mutui segna un più 50% in termini di importi nel primo semestre di quest'anno. Oltre un terzo però di questi contratti, va detto, sono surroghe, cioè mutui già esistenti rinegoziati e spostati presso altri istituti. Secondo l'ANCE, l'associazione dei costruttori, i prezzi delle case continuano a scendere, meno 3,4% nel primo trimestre 2015, e gli investimenti effettivi nella costruzione di nuove case restano del 66% inferiori al 2007 e continuano a diminuire, tanto che si prevede per tutto quest'anno un meno 8,8% finale. Resta da considerare infine che la tassazione immobiliare in Italia è tra le più alte in Europa. Per questo è decisivo che la legge di stabilità, in corso di discussione in questi giorni, intervenga in modo davvero radicale su IMU e TASI. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Mentre il governo continua faticosamente a portare avanti il suo progetto di creare un fondo di indennizzo cosiddetto umanitario per i possessori di obbligazioni subordinate e di azioni delle quattro banche messe sostanzialmente in liquidazione, separate cioè l'attività buona da quella cattiva, dall'altra parte la borsa continua a guardare con grande preoccupazione al settore del credito. Non è un caso se anche oggi i titoli bancari sono stati quelli più colpiti dall'ondata di vendite che già da stamattina ha cominciato a tempestare i mercati. Ma al di là dell'aspetto della borsa, quello che più preme in questo momento è far capire bene alla gente il sentiero su cui si è instradato il governo. Pensare o cercare di definire umanitario il soccorso a chi ha perso dei soldi investiti rischiosamente sul mercato finanziario non solo è sbagliato culturalmente, ma rischia di generare un falso sensazione di sicurezza in tutti i risparmiatori, perché non si sa mai se domani perdo e l'emittente fallisce, ho sempre la speranza di recuperare i soldi da chi? Dallo Stato, ma dietro lo Stato ci siamo noi, cioè le tasse. Quella spirale negativa che è stata condannata durante la crisi del credito, che accusava i governi di voler salvare le banche con i soldi del contribuente, beh, non ce ne siamo liberati affatto sotto questo punto di vista, ma il paradosso qual è? Che gli stessi che accusavano gli stati che aiutavano le banche sono gli stessi che ora chiedono ai governi di rientrare nei salvataggi delle banche e persino di indennizzare le perdite dei risparmiatori. Il punto è dividere chi è stato truffato e chi ha subito un danno per una cattiva rappresentazione della rischiosità di un prodotto, da chi invece ha pensato bene che, come è avvenuto in Grecia, in fondo vengono tutti salvati e quindi anche l'investimento rischioso speculativo alla fine può rendere qualcosa. Attenzione quindi a dividere bene tra chi ha pensato di fare il furbetto del mercatino da chi invece ha cercato in qualche modo di tutelare il suo risparmio. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.